Yo! Sulla carrozza di metallo, destinazione luna, io e te, mia musa. Suono di cuore dentro. Suono di cuore dentro. Suono di cuore dentro. Finché stai con me, io starò con te. In giorni di ghiaccio, Bonnie e Clyde per sé. Ci faremo pere d'amore. Vedremo cadere splendore dentro i nostri occhi, ardore di cuore, io e te, Bonnie e Clyde per sempre. Oltre le nebbie che ci vorrebbero ingannare, sorgeranno fiori del male. Queste scoregge che vorrebbero come noi volare, non sanno però che chi si odia si ama un po'. Saremo un re e una regina su un trono di guai finché vorrai. L'alfa e l'omega di una storia che nessun poeta potrebbe scrivere pari, perché noi siamo gli allori, siamo dentro una pioggia di colori. Scriveremo pagine di cuore, scriveremo pagine di amore, dolore, fogli viola che nel letto troveremo insieme. Ne scriveremo maledetto seme che porto in grembo, maledetto il ricordo, maledetto questo giorno, maledetto il mostro, mostro, mostro. Io fu eroe, prisi per le palle il mostro. Ci giocai a calcio fino a qualunque posto. Portai la mia mente fino a te, il mio spirito volava. My spirit fly to me, baby. Olé, olé, olé. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Il giorno in cui nessuno verrà, saremo più in là, più, più in là, più, più in là. Dentro ogni dolore perso, ogni fuoco un po' sfiatato, noi troveremo un nuovo incendio. Due mani che si stringono in un lampo, saremo incanto in un giorno spento. Troveremo le parole per volare insieme. Finché stai con me, io starò con te per sempre. Finché starò con te, io starò con te fino a che le maree non diranno il tuo nome. Io sto con te, tu stai con me, perché questo ci sta bene per ora e ora è per sempre. Io sto con te, Romeo e Giulietta, lo stesso veleno del fango che ci fa in fretta. Torna da me, nel mio cuore vorrei averti per me, cancellare il dolore, il rancore. Rock and roll, baby. Rock and roll, my ladies. Oltre il giorno di dolore, oltre il giorno di dolore.